25 anni di May, quali sono le proposte per questa nuova edizione? Diciamo che la proposta è sempre quella che caratterizza la nostra missione, è quella di dare spazio di incontro, di formazione, di confronto a tutti i giovani artisti emergenti che da tutta Italia provengono lì attraverso le piccole etichette, i festival, i promoter, i contest, per ascoltare quello che viene realizzato per promuovere la nuova musica italiana. Dall'altro è quello di premiare alcuni artisti che speriamo abbiano una piattaforma di lancio attraverso la nostra manifestazione, come è accaduto in passato, e quindi premiamo Giovanni Truppi come miglior artista indipendente dell'anno, Fulminacci per gli emergenti, 13 Pietro per la trap, ma anche Vito, Mon e Panta in quest'ambito giovanile. Dall'altro è di farli incontrare tutti questi giovani con quelli che hanno fatto l'innovazione 25 anni fa e nel mondo indipendente, quindi rappresentano oggi la tradizione ma sempre attenta al nuovo, e quindi Morgan che venne con i Blue Vertigo, i Negrita che nacquero proprio nello stesso anno del May, e Cristina Donà e Ginevra Di Marco, due pioniere della scena indipendente musicale italiana, e Riccardo Sinigaglia. Quindi tradizione, innovazione, poi ci saranno i Marlene Kunze, i cantori di Carpino, Edoardo De Angelis, tante altre espressioni di artisti che nel loro tempo hanno sempre rinnovato e che quindi si incontrano e si confrontano per avere anche delle opportunità di collaborazione e di altre iniziative, cose che nascono abitualmente a me. Tantissimi artisti, ma anche altri progetti come mostre e altri eventi, sì, giusto? Il May è sempre stato, ed è questa un po' la chiave del suo successo, non è mai stato solo la live, il live non è mai stato solo esclusivamente al centro, anche se appunto per tre giorni si suona ad ingresso libero per tutti nel centro storico, Piazza del Popolo, il Teatro Masini eccetera, ma convegni, mostre, c'è una bella mostra sulle origini della musica dell'Emilia Romagna, quindi l'orchestra di Liscio degli anni 60-70 in cui suonavano tantissimi artisti alternativi, c'è un convegno il sabato 5 ottobre al quale invito tutti a partecipare, si chiama Digital Day, il primo convegno internazionale con una trentina di operatori da tutta Europa sul diritto d'autore nel mercato digitale oggi, una situazione complessa da analizzare sempre per restare aggiornati, un forum del giornalismo musicale e continua attività di formazione per far crescere e sviluppare questi artisti. Poi, oltre a questi, faremo anche la domenica l'esibizione di tutti i principali artisti che arrivano dai contest per emergenti con alcuni testimonial come Petra Magoni, Paolo Benvenu e altri, e quindi una tre giorni che cerca di rappresentare un po' il mondo che ha sempre cercato di trasformare il Made in Italy musicale.